America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Dopo la vittoria di strettissimo margine, pensate, 8 voti di Mitt Romney in campo repubblicano al caucus dell'Iowa, la battaglia si sposta già nel New Hampshire. Rick Santorum, la vera grande sorpresa del risultato dell'Iowa, è già a fare campagna e cominciano a delinearsi alcune posizioni. Una delle più interessanti è in campo democratico. Il presidente Barack Obama ha deciso di sfidare i repubblicani e ha confermato la nomina di Richard Cordray, capo dell'Agenzia per la protezione finanziaria dei consumatori. Questa nomina era stata bocciata dai repubblicani e bene, Obama ha approfittato del fatto che il Parlamento non è riunito per imporre questa scelta, cosa che naturalmente ha creato non poche proteste. Today I'm appointing Richard as America's consumer watchdog. And that means he is going to be in charge of one thing, looking out for the best interests of American consumers. Come vi dicevo, una decisione controversa, ma è chiaro che Obama vuole rilanciare contro la destra repubblicana, contro i repubblicani. Con una decisione di questo genere, lui interviene a gamba tesa nella campagna elettorale dei repubblicani, che sta già subendo alcune modifiche importanti. La prima, intanto, Mitt Romney ha incassato ieri mattina l'appoggio, l'endorsement del senatore ed ex candidato alla presidenza John McCain, un endorsement importante, anche se McCain ormai è una figura che appartiene un po' al passato. Ma la notizia più importante di ieri è questa. Last night the people of Iowa spoke with a very clear voice, and so I have decided to stand aside. Michelle Bachmann ha annunciato che si ritira dalla campagna elettorale per la nomination repubblicana. Michelle Bachmann, tipartista dell'Iowa, pensate, quando ci fu il primo straw poll, cioè una specie di piccolo sondaggio fra gli elettori, fu lei a vincere e si creò così una certa sensazione attorno a questa donna che sembrava potesse prendere il posto di Sarah Palin. È una super conservatrice, strareligiosa, vuole assolutamente difendere il diritto alla vita dalla nascita alla morte, quindi è contro l'aborto, qualcuno dice che sia addirittura contraria al divorzio. E tuttavia Michelle Bachmann non ha fatto bene in Iowa, suo stato natale, e dunque è la prima a gettare la spugna da questo risultato dell'Iowa, dunque ci sono già delle conseguenze molto concrete. Invece c'è stato un cambiamento di umore nel perennemente incerto personaggio Rick Perry, il governatore del Texas, che l'altra notte, proprio subito dopo le elezioni dell'Iowa, aveva annunciato che sarebbe rientrato a casa in Texas per rivalutare la sua campagna elettorale. In gergo questo significa ritirarsi. Ebbene, ieri mattina ha detto no, andrò avanti fino alla Carolina del Sud, voglio ancora partecipare a questa campagna, mi interessa, mi diverto, e dunque sarà già sabato al dibattito dei repubblicani nel New Hampshire. Perché vi menziono questi due aspetti che potrebbero sembrare relativamente minori? Beh, perché minori non lo sono, perché in chiave dinamica sarà molto importante capire chi resta e chi esce in funzione degli altri candidati. Rick Santorum da solo non ce la fa. La situazione all'interno del Partito Repubblicano è molto chiara. Da una parte abbiamo Mitt Romney che cerca di conquistare il centro, diciamo un centrodestra. Dall'altra ci sono i candidati proprio di destra, Rick Perry, Michelle Bachmann che ha lasciato, Rick Santorum e naturalmente Newt Gingrich. Ecco, costoro hanno conquistato addirittura il 75% tutti insieme del voto repubblicano dell'Iowa, però sono divisi fra loro, c'è questa grande confusione all'interno del Partito Repubblicano, questa divisione, e sembra che il partito sia un po' alla ricerca di un leader che non trova. Mitt Romney, che dovrebbe essere il favorito, in realtà non è riconosciuto come un leader dalla destra repubblicana, e dunque alla fine, dopo che Mitt Romney è riuscito a far rotolare giù come birilli tutti quelli che cercavano di mettersi lungo la sua strada, ha trovato adesso l'ostacolo Rick Santorum. I've survived the challenges so far by the daily grace that comes from God, for giving me his grace every day, for loving me, warts and all. I offer a public thanks to God. Santorum ha fatto un discorso molto buono l'altra sera, ma devo dire in difficoltà, perché Gingrich continuerà la sua corsa. Gingrich si trova intorno all'11% in Iowa e si trova addirittura al 24% nei sondaggi nazionali, pensate, dunque molto in alto. Santorum invece è appena al 4%, dunque non si vede perché uno come Gingrich debba lasciare il passo a Santorum. Santorum però ci dà dentro fino in fondo, cerca di cavalcare l'onda della vittoria dell'Iowa e cerca di proporsi come il candidato che può unire questa destra repubblicana, questa destra agitata, questa destra divisa, questa destra che cerca di imporsi sul partito, ma che pone anche un rischio non da poco, e cioè, essendo le posizioni di questi candidati molto estreme e non condivise dalla maggioranza degli americani, qual è il rischio? È che se vincesse uno di loro, poi costui perderebbe le elezioni di novembre, e dunque questo rafforza la candidatura di Mitt Romney. Il New Hampshire, tra l'altro, è il suo terreno di casa, ricordiamolo, è stato governatore del Massachusetts, è in vantaggio addirittura del 40% nei sondaggi, conquisterà questa vittoria. Dopo ci sono i due scontri difficili nel sud, la Carolina del Sud, la Florida, due stati che sono molto più aperti nei confronti della destra sociale, quella religiosa, quella fiscale americana, e il problema però resterà lo stesso. Se Santorum riuscirà a far molto bene in New Hampshire, allora altri cadranno, Perry, chissà, magari lo stesso Gingrich, e lui si presenterà in South Carolina con una posizione molto forte. Se non sarà così, la divisione continuerà a favorire Mitt Romney. La corsa si fa interessante, la seguiremo naturalmente qui ad America 24. Nel frattempo vorrei fare due chiacchiere con un collega, Andrea Marinelli, che ha lavorato anche qui con noi e che è stato in Iowa come freelance. Buongiorno Andrea. Ciao Mario, buongiorno. Allora, tu sei andato armi e bagagli in Iowa senza un vero incarico a partecipare alla campagna elettorale, quindi un giovane giornalista che si butta all'avventura. Raccontaci intanto com'è stata questa avventura, come si arriva in Iowa per conto proprio a fare il giornalista per seguire le elezioni? Per venire qua a Des Moines, da New York, ho fatto scalo a Milwaukee. La prima tratta New York-Milwaukee è durata 2 ore e la seconda è stata molto breve, è stata meno di un'ora. L'Iowa per 3 giorni è stata la capitale degli Stati Uniti, c'erano tutti i maggiori giornali americani, il New York Times aveva forse, non so, 10 persone, Washington Post, Politico, e c'era questo bar del Marriott di Des Moines che sembrava un album di figurine del giornalismo. Tu sei andato lì per conto tuo, quindi ti potevi permettere il Marriott? Ovviamente no, io ero in un Motel 6 vicino all'aeroporto di Des Moines. La stanza quanto costava al Motel 6? La stanza costava $40. Ecco, attenzione, $40, magari col breakfast incluso, no? C'era il caffè incluso. $40, diciamo, a un calcolo molto rapido, vuol dire grosso modo 30 euro per notte. E l'albergo com'era? Pulito? Sì, presentabile? L'albergo sì, abbastanza pulito. Ovviamente niente in confronto al Marriott, però ho passato più tempo al Marriott che al Motel 6. E quindi a 30 euro per notte dormivi al Motel 6 e dopodiché passavi il resto del tempo al Marriott. Non mi sembra che fosse un arrangement, come dire, da buttar via. Ecco, e il resto, il biglietto aereo, Andrea, quanto è costato? Quanto è costato andare a Des Moines da New York? Il biglietto aereo $450, credo, che pensavo fosse tanto. Poi dopo ho scoperto, parlando con alcuni colleghi americani, che avevano pagato anche $1,800. Comunque mi sembra un budget interessante. Ma per chi lavori? Sei riuscito a scrivere qualche articolo per qualcuno? Ma ho scritto diversi pezzi, ho scritto per Il Riformista, ho scritto per Libero, per Il Post, e anche un pezzo per Io Donna sulle cameriere della catena di ristoranti Hooters. Cameriere della catena di ristoranti, che cos'è? Scusa, raccontaci, perché Io Donna è interessata alle cameriere del ristorante Hooters? Hooters è una iconica catena di ristoranti americana con cameriere in abiti molto attillati e forme piuttosto in vista. E a me interessava il loro punto di vista su queste primarie. E qual era il punto di vista di queste cameriere formose con abiti un po' attillati su queste primarie dell'Iowa? Ma non avevano grandi idee, però avevano altre qualità. Beh, direi forse è meglio che ci fermiamo qui su questo punto. Adesso stai andando dove? In New Hampshire? Sì, a questo punto la direzione è New Hampshire. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Fred Milano, membro del gruppo The Belmonts, popolare trio degli anni 50, se n'è andato ieri a 72 anni. Lo ricordiamo con questo brano del 1958, The Belmonts, Tell Me Why. When I wake up in the morning, I find you right there. Tell me why, tell me why. Why my heart skips a beat every time that you're near, every time that we meet. I love you, yes I do. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.